Questa proposta di legge ha alle spalle una lunga storia che possiamo dire che prende le mosse dell'immediato dopoguerra. Già nel 1948 prendevano proprio le prime linee di azione con Aldo Capitini che chiedeva una internazionale dei resistenti alla guerra, punto che abbiamo realizzato con i coordinamenti internazionali dei nostri movimenti pacifisti, non violenti, disarmisti. Chiedeva l'istituzione di un servizio civile nazionale, altro punto che abbiamo realizzato, e chiedeva la creazione di un ministero per la resistenza alla guerra, che doveva essere incaricato di formare i cittadini alla non collaborazione non violenta nei confronti di un eventuale invasore, cioè modificare il modello di sicurezza non più fondato sull'esclusivo possesso e impiego di armi. E questo è il punto che ci manca da realizzare e che vogliamo realizzare con questa nostra proposta di legge. Il presupposto è il dovere costituzionale di difesa della patria, articolo 52, che le madri e i padri costituenti hanno appunto affidato a tutti noi, in linea con il dovere di solidarietà, articolo 2, e in linea con il ripudio della guerra, articolo 11. Vogliamo quindi che siano valorizzati tutti quegli strumenti non militari già oggi esistenti nel nostro ordinamento, con i quali tutti possono e devono concorrere, non solo gli obbligati, abili e arruolati, ma noi appunto a questo opponiamo, proponiamo, aggiungiamo la difesa civile non armata non violenta, che già gode, ha goduto di una prima sentenza della Corte Costituzionale, la 164 ancora del 1985, che ha riconosciuto l'esistenza delle modalità alternative di difesa non violenta della patria. Questa proposta di legge vuole mettere insieme sotto un unico ombrello appunto tutto questo pregresso. La proposta di legge ha 5 articoli. Il primo è il riconoscimento della difesa come un comparto, una componente del sistema nazionale di difesa e di sicurezza della Repubblica. Il Dipartimento viene chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, di coordinamento e di attuazione delle politiche pubbliche nel settore, avvalendosi dei corpi civili di pace e di un nuovo istituto per la pace e il disarmo. A questo l'articolato prevede anche la nascita di un Consiglio nazionale della difesa civile non armata non violenta, che avrebbe anche necessità e possibilità di dialogo, di rapporto con il Consiglio Supremo della Difesa. Gli articoli 2 e 3 disciplinano il profilo finanziario e qui c'è un'altra novità. Viene istituito il fondo che darebbe finalmente stabilità e prevedibilità nell'utilizzo. E aggiungiamo che questo fondo annualmente verrebbe integrato dalla quota del 6 per 1000. Introduciamo cioè il concetto di opzione fiscale, che è un modo anche di raccogliere un'altra nostra collettiva eredità importante, quello dell'obiezione fiscale alle spese militari, cioè la possibilità di non versare all'erario la quota presumibile per l'utilizzo delle spese militari e degli armamenti, ma devolvere questa parte appunto per finanziare iniziative di pace. Con il 6 per 1000 ogni anno avremo sostanzialmente una sorta di referendum tra tutti i cittadini, perché senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini, ognuno, sulla propria dichiarazione dei redditi, potrebbe indicare la casellina del 6 per 1000 che andrebbe a integrare il fondo già stabilito per il finanziamento e le attività della difesa civile armata non violenta. L'articolo 11 conclude con la disciplina dell'entrata in vigore di questa proposta di legge. Noi, tra qualche giorno, appena sarà pubblicato sulle gazzette ufficiali, avremo 6 mesi di tempo per la raccolta delle 50.000 firme online. A conclusione della raccolta di firme e della loro validità, incardineremo questa proposta di legge nell'iter legislativo del Senato della Repubblica. E poi, finalmente, quello di aprire un dibattito serio nel Paese sul tema della difesa. e di dare finalmente la dignità che merita alle nostre proposte di difesa civile all'armata maggioressa.